gente che sta parlando un po' da lontano. Stavo facendo un po' di ordine, ho acceso un po' la apparecchiatura, un paio d'ore, anzi da stamattina che è accesa. Si deve essere anche dimenticato, adesso sono venuto a spegnere, invece ci sento, dai. Sto bene, va bene il tempo. Alla grande, alla grande, tu a riposo? No, oggi ero di visita, visita del lavoro, dai, visita medica, periodica, e quindi l'ho fatto. Domani è festa, ma dopo domani adesso per rientrare. Ma domani è festa, sì. E dopo domani si rientra. Sì. Sei a casa tua? Sì, qui. Sì. Come il segnale lì? Il trasmettere la ragione avevo toccato, mi so se questo apparecchio o l'altro. Vedi un po'? Vabbè. Questo è un po' tirchio, questa è una 9-10. Sì. Comunque anche questa è la tirchia, infatti devo tutti un po'. Allargati un po' di manica. Adesso ti ho messo qui c'è sul 9, pagina 9:30, prova. Un po'. Un po' prima, sì, cioè prima del 30, sul più, quindi 9:20, 9:25, dai. Non so se sia giusto, però più o meno, dai. Ma anche tu sei così, fra, siamo vicini. 9:25, 9:30, sì, non è che. Ma non lo tocco, non ho più voglia di smontare, regolare, Vuole passare tutta la fantasia. Quello cos'è? Tipo questo l'apparecchio? Tipo samurai o diverso? Cosa, fra, scusa? È tipo questo che uso io, tipo samurai, Galaxy. È diverso quell'apparecchio che stai usando? No, io ho il 3009, Superstar 3009, quello cromato. E vai, ce l'hai presente il mio? Il samurai? Che è il tuo, non ce l'ho presente. Anche questo è tutto cromato, Questo tipo pomolini sotto, frequentimetro, diciamo, sul lato destro, insieme ai canali, e a sinistra ce lo smitta. Ce l'avevo visto su internet. Ma basta scrivere Superstar 3009 e trovo subito su internet. E qua non ho il telefono, sta caricando giù. E vabbè, io lo guardo. Perché non è una cavolata, questo da regolare. Togli il coperchietto, senti il VR, il VR1, lo metti appena appena, è tutto fatto. Vabbè, il mio lascio attaccato alla staffa. Chi ne ha voglia attaccarlo? No. Prima avevo di più la passione di fare queste cose, adesso ma non voglio neanche di farmi uno spezzone che mi serve. E anche quello lo fai. Si è bruciato un saldatore l'altro giorno, quelli che avevo preso alla Lidl, al metodo di saldare. E da due ne ho fatto uno, dai. Ho recuperato i puntalini che mi servivano nell'altro e sto utilizzando di nuovo il vecchio, che è ancora quello che funziona. E anche devo fare qualche spezzone, perché uno è mezzo rovinato e bisogna rifarlo, dai. Ah, io sto usando quello blu, è blu, la pennetta, una penna, là. C'è un tastino rosso sopra che fa 30 watt, 120 sono schiacci. Va bene. Comunque, quello lì è il... Ne ho uno giù, da 25, c'è uno qua. Mi sa che è il settimo, l'ottavo che compro. Sì. Io ne ho sciolto uno di quelli della pistola che ti avevo prima, ti ricordi? È proprio sciolto, Non puoi saldare robe troppo robuste. Anche io ne ho uno a pennino col pulsantino. 30, però non mi ricordo il massimo quanto arrivi. 30 mi ricordo che è al minimo, fanno schiacci e poi aumenta. E c'è la punta intercambiabile, cioè la switch la cambi. In teoria era così, adesso però l'ho modificato e sto usando quelle dell'altro saldatore. Praticamente ho usato una di quelle punte intercambiabili in rame, ho tagliato la punta che era già bucata, rovinata, e l'ho usato come prolunghezza. E in quella prolunghezza ci inserisco gli inserti dell'altro saldatore che vanno bene. Adesso devo vedere però se raggiunge la temperatura, perché è leggermente più lungo. Dobbiamo vedere se ce la fa. Se no se vendono i ricambi. Quelli che ci tu, la molletta. Non lo so, quelle che ho io, del saldatore mio, sì. Questi tipi di costa, più la punta del saldatore. Ho visto su internet una punta, mi sembra, 12 euro, cazzo, non si rivale. È una cosa 11,50 tutto compreso, allora, sai cosa facevo io? Quando mi usavo il primo saldatore, no? La punta era sempre buona. Poi compravo una nuova, ci mettevo sempre quella vecchia, poi compravo una nuova, ci mettevo vecchia, mi sa che ne ho tre o quattro nuove ancora. Dove le vendono? Passate, ce ne saranno dove le vendono. No, di mi ci. Non so come ordinare da. Ecco, siamo già arrivano, i programmi qui, dei siti tipo AliExpress, queste cose qua. Ma c'è tanto di cui puoi comprare, aspetta. Allora, un attimino. Ok, ebay. Poi ho preso lì, ho preso anche la, cioè l'aspirastagno, quella surriscata, no? Qua, ecco, non lo sto più usando la verità, sto usando quello normale, perché è un po' impegnativo quello, però già funziona, eh. E quelli che scada la punta c'ha il coso incorporato, la, lo succhiotto, l'aspirastagno. Sì, sì, il succhiotagno, per svuotare i circuiti, le schede. Aspetta, vediamo un po' se me lo dà. Allora, aspetta un attimino via. La sto facendo bene di radio, sì? Sì, sì, sempre bene. Allora, trovo questo qua, vedi, questo. Ah no, sto qua, no, no. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Si chiama doppia potenza 20 watt 130. Adattore del stile doppia potenza 20W 130, attivazione a pulse stagno omaggio 10,50 spedito. Dimmi che marca è? La marca, che marca è? Lea. Vieni qua. Allora, la marca qua è blu, non ce la sbaglia col tastino rosso sopra. È la marca, non si vede che marca è. Non si vede, fra. Ripeto, è blu, non ce la sbagliare. Quindi, sì, su eBay, il nome dell'azienda? Electronic Megastore. E poi, Mario, ma non c'è problema di guardare. Grazie. Figurati. No, ti posso garantire che funzionano benissimo. Riesci a fondere, ti può saldare un PL e lo fonda bene? Fa voglia. Le fatture più grosse che facciamo sono quelle alla fine, quindi quello non scaldiamo. No, doveva avere anche uno a gatti, l'avevo preso per qualche intervento magari fuori porta, tipo in macchina, dai, che non hai energia. Non l'ho mai provato, è ricaricabile. Sì. Allora, ce ne sono tanti, la verità, ce ne sono tantissimi. Però io con questo qua mi trovo bene, mi trovo benissimo. Devi stare attento, se tu lo metti dove appoggi il saldatore, siccome scalda, magari rischi che ti si, siccome c'è quattro viti, no? Che lo tiene fermo, e rischi magari che si surriscalda la plastica e si stacca, e a me è successo. Però se lo tieni mai appoggiato su un tavolo, su o anche in terra, non succede questo. Io già lo stesso, con patente lo appoggio al tavolino, sul bordo del tavolo, o cominci tu in terra. Mi sta accendendo, forse è ceduto, qualche vite che si impunta. Infatti adesso gli metto un po' di nastro per non aprirsi. Però va bene, anche quello ce l'ho un sacco di anni. Non mi ricordo che marca sia, però, ripeto, l'altro si è bruciato e questo sta continuando a funzionare. Poi c'è questo regolabile, vabbè, la punta si può cambiare. Ce ne sono tanti, poi ovviamente più spendi più hai. Poi c'è anche la stazione saldante, solo che il saldatore non funziona più. Poi c'è l'aspirastagno, lo stesso da base, l'avevo comprata, non lo sto più usando, ma non è tipo una penna che la carichi tipo un pennino a scatto? Questa mia è ad aria. Quella che usavamo con un mio amico sembrava una penna stilografica a scatto, tu caricavi, poi prendevi la sicura e risucchiava praticamente la stagna. Anche quella, ma anche la station con la pistola, praticamente la metti a 20 gradi, no? Una volta che è calda, appoggi, fa brrr, e aspira lo stagno. Va scaldando e aspirando lo stagno, così? No, rimane calda, però aspira lo stagno. Sì, ma dico, riesci anche a fonderlo, oppure ci vuole sempre il saldatore per scaldare lo stagno? No, lo fonde, lo aspira. Però, vedo, a te ti servono questi lavoretti che fai, ti viene utile, dai. Diciamo che quello lì è buono, magari, quando ti devi, adesso vivi smanettare una scheda là, risaldare dei condensatori, dei diodi, va bene, sì, ti fa la pista pulita. Sì, è utile. Vabbè, stai entrando gente, ho sempre poca roba. Qua sono le 5, ci vuole mezzo tra Claudio, Gianni. Ma mi sono ordinato, ho 100 grammi di stagno, quello da 1, da 1 millimetro. Ehi, attenzione, non ho preso l'urgenza, mi serve un po' di stagno, da carboni. Ho pagato una barca di soldi, un rocchetto piccolissimo, E a peso d'oro te lo fanno pagare. Io ci l'ho pagato, 9,80 euro, mi sa. E quanti grammi è? 100 grammi. Già costa, vediamo, guardo il prezzo, se c'è ancora attaccato, se l'ho pagato. No, non c'è, ne ho preso un pacco, non mi ricordo dove, forse dai cinesi l'altro giorno. Ho pagato 3,90 ed è due pezzi da quanti grammi. Da un millimetro. Non lo vedo. Però sono due bei rocchetti grossi. Spero che sia buono, però non l'ho provato, non l'ho aperto. E lo sa, 20 grammi. No, è una bella bobina, sembra la bobina di un mulinello. Ehi, vabbè, la cinesi lascia il tempo che trova. E infatti me l'ho preso per trovarlo e basta. No, uno è da 2 mm e uno è da 1 mm. Però non c'è il peso. Però a peso sembra che ci siano più di 100 grammi. Vabbè, quello da 2 mm è abbastanza grosso per me. Io lo uso da 1, poi me lo prendo quello da 0,8. Sì, questo lo prendo per i PL. Non c'è neanche la misura, è metri, ma l'encina, due pezzi. Ancora è chiuso, è da provare, se da buttare o meno. Adesso me ne ho ordinato da 0,8 per le piccole saldature, tipo connettori di telefoni. Quello va bene, lascia vedere, si vediamo un po'. Questo qua è da 0,8. Però questo qua è 60-40, 100 grammi, 9,50. No, questo qua non lo prendo. Devi prendere quello, ecco questo qua, a me, da 0,8. Quanti grammi è? 100 grammi. Quello che c'ha la scritta, sito Super Solder Wire. Sì, ecco, o quello che ho preso da carboni, che vabbè, ancora ce n'è. Poi c'è quello che c'era in rotazione con quel soldatore che ho preso dalla Lidl. Anche lì c'era un rocchetto dentro. Mi rimane, diciamo, il porta saldatore che lo utilizzerò con il saldatore vecchio, quello con la molla che c'è più lì dentro, dai. Sì, poi c'è scritto the best quality solder, cioè per saldare, no? Sì, mi ordino anche questo qua che mi serve. Molti hanno anche la pasta saldante già all'interno nell'anima, per saldare meglio. Sì, non so, infatti questo qua ce l'ha. Allora, questo qua con un flussante, 40% BB con flussante. Allora, lascia vedere, questa qua, ce ne sono un bel, ce n'è pure da mezzo chilo, lascia vedere, 500 grammi, costa, mi sa che 30 euro, 29, lascia vedere. Sì, Philips, quello che stava dicendo in riserva. Rocchetto stagno per saldature 60-40, Philips Service qualità top, 0,8 mm, grammi 500, costa 38 euro costa. Mezzo chiodi, non ti do una vita. Buonasera, mi serve un controllo. Claro. E che controllo vuoi? Non so, sto provando un vintage, dovete vedere intanto se la radio adesso è buona e quant'è il segnale. Poi vi devo fare un altro passaggio, ciao Fra. La radio è super, com'è forte. Il segnale purtroppo lo smette, questo qua un po' usicla. Sei 9,10 qua, 9,15. Buono. Buono, perché adesso devo tirare sulla potenza di questa radio, che sto andando con un watt e mezzo. Allora, Franco, da te come sono di segnale di radio? Qua la radio è buona, non è fortissima, però è molto chiara e poi è fedele, diciamo, alla tua voce, bella, grossa, corposa, non ha molti toni alti, Segnale 9 più 5, con picchi positivi. Ok, 9 più 5. Allora, adesso io faccio un altro passaggio, aumento la potenza, faccio un altro passaggio, mi dice se va bene come radio e come e se il segnale aumenta, ok? Tu che sei più lontano. Il K. Allora, così ho aumentato, mi devi dire se la radio è rimasta uguale e se il segnale è salito. Adesso sei sul più del 30 e la radio è rimasta buona, è anche aumentata perché ha preso il segnale e aumentata anche la radio. Vediamo cosa dice il mio vicino di casa, com'è da te? No, ripeto, segnale qua, retrobus, no, perfetto, lo sai che questo qua è laterale, lo smitter, quando sarà che ne ho voglia, che ho tempo, non devo fare niente, sono annoiato, con l'ottaro. La radio va bene, come ti ho detto prima, segnale 9.15, circa, dai. Non è aumentato niente da te, quindi? No, claro, guarda, che cosa posso fare, aspetta, fai un passaggio. Allora, guarda così, magari attenuandomi, chiudendo il ref gain. Ma ti ho portato a 9, vai, prova. Allora, così è la potenza bassa, ok? Aspetta un attimo, non trovo un trimmer, cazzo. Allora, ecco, così è la potenza bassa, c'è la potenza alta, e questa è la potenza bassa. Sei sceso. Praticamente è fatto da 9 a 6, a picchi positivi a 7. Anche da te, fra, così è. Beh, io ti ho lasciato con lo smitter normale, che sei passato da 9 più 5 a 9,20 abbondante, al più del 30 che sarebbe 9,20 abbondante. E la radio rimane invariata però, ok? No, qui aumenta anche, si sente anche più silenzio di frequenza perché aumentando il segnale schiacci di più il QRM, quindi è anche più chiaro e più forte. Va bene, dai. Allora questa è la potenza bassa e questo è il trimerino. Ecco qua. Quindi così con la potenza alta va bene. Sì, sì, va benissimo. Ecco, per me è importante quello, che la radio sia buona, che sia rimasta buona e che il segnale sia salito, dai. Ah, grande, qui sale, sale. Oh, per un attimo porto la porta del cane a fare i bisogni, dai. Rientro subito, già l'ho acceso qua. Se sono a casa, qua. Va bene, va bene. Cappa di Roggero. Ok, allora fra che si dice? Oggi è una visita del lavoro, visita periodica, e quindi adesso siamo a casa, stavo sistemando un po' di roba, c'era un po' d'ordine qua, ho acceso gli apparati da stamattina, quindi erano accesi, poco fa si è venuto a spegnerli e c'era Luca, adesso è stato a fare una chiacchierata, dai, del più e del meno. E questo che apparecchio stai usando, lo puoi dire? Sì, sto usando un Intec base B3104F, che non c'era la potenza, adesso gli ho tirato su tutta la potenza, però mi interessava sapere se la radio era a posto, capito? Se la radio è a posto va bene così. No, non la rovina per niente, non la rovina nulla, guarda, veramente bene. Ma è quello che avevi già, quell'Intec che avevi già? Avevi preso da questo amico di su, delle zone alte? Sì, nelle zone basse o nelle zone alte, questo me l'avevo fatto avere Gianni per capirci. Sì, ho fatto l'abbinamento microfonico che è un MB più 5 e i toni ce li ho a 2 come tengo gli altri per la mia modulazione. Il volume del microfono senza mic gain, perché questa mic gain è già al massimo, il volume del microfono ce l'ho a 5. No, va bene, non dagli altri toni alti perché la tua voce è quella, mi piace quei toni più bassi. Che a volte, secondo che apparecchi usi, è troppo sottile, a me non piace. Invece questa è abbastanza fedele, dai, alla tua modulazione, alla tua radio. Fedele al K, per capirci. Va bene, Fra, va bene. Ok. Ok. Per il resto tutto bene? Sì. Per la tua età. Ma qualche volta stiamo uscendo, qualche serata ce la stiamo facendo, vogliamo serata, oddio. Qualche pranzo più che altro. Con gli amici. Facciamo attenzione, però ci vuole un po' di fortuna, dai. Si becchi niente. Ehi, andavè. Fra, adesso cambio radio però, perché devo vedere se la taratura Se, cioè, se la taratura, se vanno bene anche gli altri con questo spostamento di antenna, eccetera. Ok, adesso cambio radio, così mi dici se va tutto bene. Adesso i watt che stai usando al massimo cosa sono? Quanti sono? Una quindicina, 15-18 modulati. È buono, è un segnalone, cioè, mi sembra, non so se arrivi col K così, forse sì, però siamo lì, segnale quello, molto buono, perché a volte ti sento parlare con dei segnali un po' più bassi, tipo 7-8, oggi c'è un bel segnale. Beh, se uso la potenza normale delle radio vintage, sì, ho capito. Aspetta il cambio radio, oggi mi dici se è meglio questa, fai bene attenzione, perché è importante per me, devo trovare una decisione di quale radio usare vintage, perché non è che posso stare cambia, eccetera, eccetera. Ne ho tante fra, quindi devo cercare di usarne una. Adesso io cambio e tu mi dici se rispetto a questa, se questa che sto usando adesso, rispetto a quella che ti faccio sentire, ok, ti piace di più. Va bene? Bene, sono qua. Mi fido della tua ricezione, dai, anche perché sei lontano, se no un casino, aspetta. Sì, capo, io ti sto ascoltando la cassa esterna, quindi è abbastanza fedele, dai. Allora, fra, questa è l'altra radio, com'è? Allora, è meno squillante, è un po' cupa, e poi ti c'hai alternata sotto, non so cosa sia. Sento alternata anch'io, sì. Aspetta. Anche adesso c'è alternata. Sì, si sente. Come segnale più o meno è simile. Ascolta, la radio com'è? Meglio questa o l'altra? No, io preferisco l'altra. Qua sembra che sia un po' più da lontano, sembrerebbe. Il microfono è lo stesso o è un altro? No, il microfono è lo stesso. Allora, tiriamo sul microfono, però. Vediamo un po'. Allora, passiamo la tonalità. Ecco qua. Allora, questo è uguale all'altro. Però io preferisco l'altra, non lo so. Forse perché c'è questo rumore che ti porti... Perché è abbastanza presente l'alternata. Prova a toccare lo spinotto del mic. Vediamo un po'. Se cambia. Ora, c'è ancora l'alternata? Sì, c'è ancora. Può essere l'alimentatore, boh. È un altro alimentatore che stai usando? No, sono 220 fra, no, ne hanno alimentazione questo. Potrebbe essere l'alimentatore interno. Assolutamente, l'altro era silenzioso, il microfono, anzi, quando aumentavi di potenza proprio schiacciava tutto, diventava bianca la portante quando non parlavi. Ok, aspetta, provo l'altra. Ecco qua, questa invece è l'altra, com'è questa? Questa, il microfono è toccato qualcosa? O sei più lontano? No, questo è sempre MB5. Ma è ancora un'altra radio o è la prima che stai usando? La prima? No, questa è la terza. Le ho provate tutte e tre. La prima lascia perdere. La prima mi ha detto che va bene. Poi abbiamo fatto la seconda, ha detto c'è il rumore di alternata. Qualche rumore senti? Va bene o va male? No, rumori non ne hai, però è sempre meglio la prima. Qui sembra che sia un po' più da lontano, stai parlando un po' più da lontano. L'altra è più... migliore la radio. Allora, per parlare da lontano non c'è problema, abbiamo aumentato i toni, così va meglio? Sì, va meglio, però ripeto, come radio mi piace più l'altra, la prima. Come radio ti piace più la prima, però come timbrica dici tu, ok, come rumori, come segnale, è tutto uguale? Sì, qui c'è leggermente prima delle più. Se ti atteno magari posso vedere meglio la differenza, però siamo lì, le potenze sono molto simili, può cambiare di 1-2 watt forse, non di più. Ho capito, quindi confermi che è meglio la prima, vai. Va bene. Comunque questa non è male? No, non male, però meglio la prima, ripeto, più chiara la modulazione, la sento più più fluida, più liscia. Qua rumore di alternata non ce n'è? Assolutamente no, questo la portante è buona, il segnale è chiaro. Ok, allora ho tolto tutti i toni, secondo te così va meglio o peggio? Guarda, 1, 2, 3, 4, prova radio, come così va meglio? No, abbassa qualcosa, abbassa l'amplificazione. Troppo alta, vero? Allora, abbassiamo l'amplificazione, la mettiamo così, va meglio? Quanto è adesso? Prima era 8, adesso è a 6 l'amplificazione, va bene? Però i toni sono a 0, Provo a abbassare un pelino ancora? Così a 5, uguale all'altro, va bene? Sempre con i toni a 0, Sì, va bene. Adesso provo a modificare i toni invece. Ok, adesso mentre parlo ti metto il tono a 1, così a 1, va bene? Quasi niente è cambiato. Modifica ancora? Voglio portarla simile all'altra. Adesso i toni sono a 1, li portiamo a 1,5. Guarda, così va meglio. Così? Modifica ancora? Così i toni sono a 2, come l'altro. Toni a 2 e preamplificazione a 5, stesso microfono. No, così peggiora. Più aumenti, più peggiora. Quindi era meglio andare a bassi. Te l'ho detto, quindi devono essere così, guarda. I toni così, anche se l'amplificazione è molto alta. Però i toni devono essere così, giusto? Sì, andava peggiorando la... Mentre aumentavi peggiorava la radio. Ok, tu però mi devi sempre dire se la radio è chiara, se senti dei rumori e se il segnale è buono, tutto qua. No, il segnale è sempre buono. La radio, ripeto, non è il massimo, non è fluida come la prima, è sempre la migliore che hai fatto. Il primo passaggio che mi hai fatto con la prima radio è la preferisco. Qui c'è qualcosa che insomma che non è il massimo, dai. C'è qualcosa che non è il massimo, non capisco cosa, perché i microfoni sono tutti uguali. Allora, se invece io faccio così, Franco, attento, allora, tono a 1, preamplificazione la mettiamo così a 7, ha cambiato qualcosa? Aumenta un po' la potenza della radio, però rimbomba troppo. No, secondo me puoi abbassare invece un po' il watt. Che non sia un problema di saturazione invece, che sta sparando troppo forte la radio. Ah, ecco, infatti, allora, vediamo un attimo, allora, TX è questo. Guarda se ha cambiato qualcosa. No, ancora no. Ok, allora, TX power. Cambiato qualcosa adesso? Il segnale è sempre uguale, la potenza la stai abbassando perché? Radio è cambiato meglio. Cosa tu? Scusate, vi stavo ascoltando. Ciao Gianfra, ciao Chira. Hai migliorato nell'ultimo passaggio, era più graffiante diciamo. È più graffiante, quindi mi confermate che va bene così, se non c'è un errore di avvio. Allora, così mi dovete dire se io devo lasciare così perché la potenza qua, se vado ad abbassarla è un casino. Sai che cosa? Rispetto alla tua modulazione classica, questa qua è leggermente, si sente un po' in scatolata, però è graffiante, cioè ce l'hai lo stesso i toni, capito? Cioè è ben equilibrata, però rispetto alla solita c'hai un po' di scatola. Vero, anche tu se metto i toni così a 2. Sì, non ho notato la differenza. Non è bella, dai, non è bella naturale la radio, c'è qualcosa che strappa appena appena. Che ti rovina la modulazione. Ho capito. Vabbè, qua non posso cambiare altro microfono perché questo è a 5 punte. A 5 punte. Adesso rimetto l'altro, il 294, perché Franco sente un rumore di alternata. C'è anche Antonio Grode, non so se lo senti. Fra. Se mi sposto di frequenza, invece che 7,5 metto 7,3, la radio è migliore, quindi controllate che non sia fuori frequenza. Che non sia fuori frequenza. Allora, vediamo così. Guarda a vedere se così cambia qualcosa. No, per me no. Se mi sposto io, con Claris, vado a sinistra, cioè diminuisco di frequenza 7,3, la radio è nettamente migliore. Quindi o sono io spostato o sei tu. Non lo so, qua c'è il delta tune. Allora, così è al centro. Così è al centro. Sì, se io mi sposto a sinistra, correggi, tu dovresti spostarti a destra. Qua c'è il datume, così al centro, così è tutto a sinistra, ok, e così è tutto a destra. No, cambia solo se muovo io. Non è nessuna variazione anche da questa parte. Qualcun altro c'è che, che ti può ascoltare e può fare la stessa prova che faccio io? C'è Antonio, sono centrato tanto sul canale 10 o c'è qualche problema? No, sei perfetto, picchi positivi, non mi sembra ci siano problemi. Oh, claro, senti, ascolta un po' Sassolino. Saturo, saturo, perché questa c'ha più watti. Allora, se però io metto così, guarda, guarda il rumore che fa. Crepato, sì, sta partendo la nave anche. Aumentano i picchi positivi, però c'è questo innesco che dici tu. Sta partendo la nave, vedi? Ce l'avevo letto. Se chiudi troppo la potenza, chiaramente non va la radio tutto qua. Vediamo un po', aspetta, Oh, Luca! Comunque l'avevamo aumentato anche la radio, ciao a tu! Ciao Luca, come ti sto arrivando? Ma quando parla a seguirlo con, non se lo puoi fare, no, con il fine corso, io sono andato sui, invece che 7.5 per quella, sui 7.3, 7.4, e la radio sua migliora nettamente, lo puoi fare? Sì, prova a Allora, adesso ho abbassato la potenza e l'ho messa intermedia, com'è la situazione? Infatti un po' migliori, dai, su, verso sinistra l'ho spostato fine corsa, Sì, anch'io, 7.3, 7.4, verso sinistra, e migliora la radio, molto più chiara, Te confermo, sì, è vero. Sì, vabbè, io ripeto, frequenzimetro non ne ho, comunque, cioè, migliora un po', un po'. Oh, tu, guarda un attimino, mi stai ascoltando bene? Io? Sì. Oh, segnale, dammi un segnale, Lu. Hola. Segnale Santiago 9. Tu cosa mi dici, Lu? Da me sei uno, tu, segnale 1, la radio è un po' così, bassina, là. Ok, grazie. Tu bene, mi ascolti, Antu? Perfetto. Ah, ok. E lì c'ho un'antenna, Antu, un dipolo, là, fa qualcosa. Io non lo sento, Io lo sento basso, fra. È la mia interna, quindi, dov'è? Zona carabinieri, là. È negativo. Allora, ultimo, quindi mi dovete dare il referto medico. Rimane il fatto che la prima radio che avete sentito è la migliore di tutti. La seconda è il 294 e secondo voi non va bene, ok? E questo è il 3104 della Intec e non vi piace lo stesso, giusto? Claro, se io ti metto 7.3 di frequenza sei perfetto, la radio è buona, quindi questo qua è spostato di frequenza secondo me. Questo 3104, ma io voglio capire come mai sentite alternata col 294, con l'Inuit, perché alternata non ne aveva mai questa radio. Ricambio, rimetto quella. Ok, ricordati che questa è la centrale, ma se c'è qualcuno che la sa centrale di frequenza. No, la centro io, già lo so dov'è il variabile della media frequenza, non c'è problema, c'è lo schema, quindi non è un problema darle una controllatina, questa è una cosa, una fesseria, mi interessa sapere se funziona il funzionamento con l'abbinamento che sto facendo, perché c'è in pratica fra un amplificatore lineare per tutti i vintage, quindi c'è un cavo unico, voglio capire se il cavo è troppo lungo, è troppo corto, se ho rientro di RF, queste cose mi interessano a me, il resto poi è una fesseria a farlo. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti, sviluppo profeta da questa parte, buonasera a tutti. Ciao Gian, saluto anche a te, buonasera. Ciao Gianni, guarda, là, ti sto ascoltando la frequenza 7.3 e sei una bomba, quindi la parecchia non c'ha nulla, trasmette benissimo, è solo da centrare la frequenza e basta. Questo lascialo in stand-by, là. Confermo, 7.3 lo ricevo qui anch'io. Fai un altro passaggio adesso. E beh Gianni. Luca. Anto? Sono salito? Sì, ti ascolto molto meglio adesso. Ma che di segnale, guarda, ola. Segnale mi sei due, ma sei anche la radio comunque. Prima la radio era un po' più bassa, adesso va molto meglio. Vabbè. Vediamo un po' se ti ascolta la profeta, lo senti Antonio Grotte? Guarda un po'. Più meglio, avanti, Anto. Via, ciao, guarda un po'. Mentre qua come siamo, raga? Alternata? Alternata no, c'è proprio di alternata perché la massa che te ne va aria, bastarda. Aspetta un attimo, vai, prova di nuovo fatto con Gianni, vai. Attenzione Gianni, siamo ascolti. Caparroccia, qua qua mi arrivi Santiago 3, attenzione, io c'ho una antenna veicolare montata su perché mi sto mettendo la posta da boomerang, quindi tutto relativo. Quindi Santiago 3, però rispetto al passaggio precedente la radio è migliorata. Ok, avanti. Capo, perché c'è una boomerang? No, mi si è spezzato il radialino, quello in punta, il superiore. E praticamente gli ho fatto un accrocchio, adesso la devo montare in questi giorni, dai. E provvisoriamente sto uscendo con la veicolare. Cappa, guarda che se vuoi ti do una, la vuoi una Ringo? No, negativo, tu, grazie lo stesso, l'ho già provata e non mi soddisfaceva allora e ho rimesso la boomerang, figurati. Parodia, perché ce ne ho una giù al mare, la stavo buttando, poi ho detto vabbè, a qualcuno servirà. Comunque, si è spezzato dalla boomerang, Giovanni. Come adesso, guardate un controllo, c'è alternata, c'è qualcosa che non va, com'è la situazione? Alternata clan. Sempre alternata clan. Cazzo di buttatoria, aspettate un attimo, la spengo perché è impossibile. Un attimino qualcosa dalla massa. È l'alimentatore che sta ventolando, non è rumore di alternata. Tocca la calza dello spinotto del microfono. Anche secondo me è alternata, perché è troppo forte. Oh Gianni, cos'è che ti sei spezzato dalla boomerang? Il radiale che si avvita, quello piccolino, quello verticale, è diviso in due, no? C'è quello grosso e poi c'è quello sottile. Quello là devo mettere a posto. Quello dove regole stazionarie? No, negativo, quello verticale è diviso in due, no? C'è il radiale, cioè lo stilo è diviso in due pezzi, la parte più grossa e poi la parte sottile che si avvita, lì mi si è rotto. Ah, basta mettere una vite passante, è risolto, eh. No, già ho fatto un accrocchio e sembra che funzioni, adesso aspetto che migliori il tempo, dai. E vediamo un po' se Claudio ha migliorato, avanti. Cosa la fai? Li fai due spacchi e metti una fascetta, stringi, lo vulcanizzi e lo dai più a lupo. Eia, già ho trovato un metodo simile, con dell'alluminio, cioè delle tre fascettine strigi tube in acciaio inox, piccoline, ho risolto il problema, dai. L'avevi già addrizzata l'altro giorno, perché mi ho visto lavorando dalle tue parti, prima l'ho vista piegata e poi l'ho vista di nuovo in posizione retta. E come l'hai piegata due volte ti sei spezzata in due? No, non è che si bicia, perché praticamente le staffe che ci sono al muro non sono perfettamente a piombo, quindi il tubo risulta leggermente in pendenza, capito? Poi soffia soprattutto maestrale, quindi tende a piegarsi sempre nello stesso punto. Io parlo del radialino, l'altro giorno la punta del radiale era piegata, diciamo del polo caldo, quello che trasmette. E dopo due giorni l'hai rimessa verticale, dritta. Non parlo del palo, parlo proprio dell'antenna. Ti sei spezzata perché l'hai riaddrizzata? No, si è piegata, ho dovuto smontarlo, ho provato a riaddrizzarlo. E niente, adesso l'ho rimessa a posto, devo solo ripiazzare boh. Ok, prima per vedere se fosse spezzata dentro con la... Com'è filettata quella lì, filettatura? C'è la filettatura, però la metà dello stilo, quella sottile, aveva praticamente un dado lungo in ottone che si è aperto come una banana. Quindi avevo già fatto una crocchia a suo tempo con delle fascettine, però continua a piegarsi sempre nello stesso punto. Adesso ho smontato l'antenna dell'UHF e della TV, praticamente ho usato i tondini dell'antenna UHF TV, li ho uniti e l'ho fatto della stessa lunghezza, e risulta più grosso di diametro, quindi dovrebbe reggere di più, dai. Ci proviamo, dai, bisogna provarci a volte, magari va bene, speriamo, dai. Vediamo un po' se... Claudio niente. Io riserva, no. Sì, Antonio Riserva c'era, rilanciatelo voi che non lo sento. No, non è Antonio Riserva, Antonio Grotte. Ah, Antonio Grotte, scusa, l'hai anche detto, sono io che sono memorato. Rilanciatelo voi che non lo sento purtroppo. Avanti Antonio! Aspettate, sto cercando il miglior era la situazione. Intanto vediamo se Claudio stava sistemando qualcosa. Avanti Claudio. Negativo, riprendi Luca. Anto, sei un attimo sparito, poi sembra più movimento. Io sono in movimento. Guarda se faccio così cosa succede. Hola 1 2 3 1 2 3. No, è sempre uguale. Ok, aspetta, sto cercando di accordare. 1 2 3 1 2 3, guarda. No, sei sparito. È così uguale, da così a così non c'è proprio, non c'è differenza. No, da me no. Qua si è aumentato da 3 se sei da 4, 4 a picchi 5. Cappa, dai, cioè da così 1 2 3 1 così ho abbassato. Qua sei Santiago 5 adesso. Quindi meglio così. Ok. Un attendino, Anto, basta, un attendino da quella zona, a voglia. E anche poi, guarda, se ce ne fossimo andati tutti quanti in FM, tutti questi problemi non ci sarebbero stati. Cosa, Anto? L'FM è molto meglio della M, sicuramente gli abbassa a livello di modulazione, ti appiattisce molto, però a livello di segnale sale. Ah, senza dubbio. Quindi Anto, mi stai dicendo che c'è una vecchia Ringo piazzata dove? Ho negativo piazzata, è buttata, ce l'ho a Platamona, nella casa di Platamona, ma in terra, capito? Siccome proprio si stava rovinando, perché si stava rovinando era a mezz'ora di piedi, quindi se la vuoi non c'è problema. Cosa vuoi ti dica? La riproviamo, io me l'avevo data Daniele tempo fa, il problema è che come c'è umidità o pioggia le stazioni salgono di brutto. Questo è il difetto comune del Ringo, dai. Quella gliel'avevo data io, sì, non, sai che cos'è? Il funghetto dietro, gli devi mettere un minimo di guarnizione, se no dove c'è l'attacco dall'altra parte c'è il negativo e il positivo, si riempie un po' d'acqua e va a massa. Sì, ho capito, io ho cercato di migliorare l'isolamento in quel punto che dici tu, perché è il tallone d'Achille di quell'antenna. Chiaramente rispetto alla boomerang credo che sia una mezz'onda, la Ringo, scotta 5 metri e spiccioli, aumentava un po' di ricezione, però ti ripeto, il problema era quello delle stazionarie. La cosa, la boomerang è un quarto, la Ringo è una mezza e poi a salire. Ehi, bene mera, infatti stavo pensando appena una giugana di farmi una canna da pesca, adesso poi vediamo. Adesso appena smette di piovere ci rimetto la boomerang che mi soddisfa per il momento, dai, non mi posso lamentare, che con il suo vento mi ha piegato il radialino, quindi adesso gli ho fatto un accrocchio, lo devo mettere su. Va bene. Antonio, Franco, vieni avanti. Il bel vento ne ha fatto danno, anche ai piani gli ha fatto qualche danno all'antenna nuova, si chiama la Green Master. Sì, vabbè, la mia l'aveva già piegata un paio di volte. Te l'ho detto, adesso ho smontato una vecchia antenna UHF della TV e dai pezzi che mi sono avanzati sono riuscito a fare un accrocchio, tipo un innesto, dai. Ho preso un tubicino in alluminio, l'ho tagliato in modo da poter essere stretto, lungo una decina di centimetri, in modo che possa prendere sia uno che l'altro. Oh già. E anche se è di diverso calibro, così, perché una è grossa e l'altra è più sottile. Sì, con dell'alluminio restante ho fatto gli spessori. Dimmi tu. Papà, ma tu non stai più lavorando come cameraman? No, negativo, già non ho fitta. No, siccome da poco mi è capitato di riprendere una videocassetta, ho rivisto, ti ricordi il domandone che faceva Schirru? Cazzo di aro. Tu me ne stai levando le mummie dalle piramidi, cazzo. Però era divertente. Vabbè. Fate in casa, a Umauma, a quei prezzi, come si dice, una piccola TV locale, però dai, già. Quella è una delle tante volte in cui mi sono divertito, dai. E poi alla fine l'aveva affiancato, chi era quella tipa? Lo sai, non mi ricordo più, eh. Sì, un'amica, adesso mi sfugge il nome. Mi sfugge il nome. Prima erano le donne che stavano a fianco a Roberto, erano due. Che adesso mi sfuggono i nomi, però. Comunque era divertente, dai. Nella sua bruttezza era mitico quella trasmissione. Era uscito per due edizioni, se non sbaglio, no? Sì. Vabbè, piccolo esperimento di una TV locale con lo zero budget, quindi si faceva quello che si poteva con la macchina a vapore, però dai, almeno ci abbiamo provato, cosa che non hanno fatto gli altri. infatti negativo, era anzi una cosa bellina, tra l'altro era al grattacielo vecchio se non sbaglio. Aspetta, vediamo un attimino se è rientrato Claudio. Avanti Claudio, se ci sei. Allora, ditemi se c'ho alternata adesso. Negativo alternata, perfetto. Alternata non ce n'è adesso, la radio com'è? Piatta, non è amplificata. Bruttissima, però è chiara. È quello che usciva dall'alternata? Cos'è stato? Diciamo c'è un problema di... sono troppe radio mucchiate, capito? Una dietro l'altra? Di rientri? Sono tutti su una presa, devo fare un altro tipo di lavoro, dai. Stavo dicendo, questa la radio com'è? Bassa? È bassa, non è amplificata, c'è un leone senza denti. No, è una radio semplice, dai, senza fronzoli. Ho capito. Va bene che va bene, dai. Antonio, da te com'è? Cappa, ti confermo, un leone senza denti, nel senso che hai perso il graffio, non è amplificata, è normale, piatta però. Va bene, adesso cambiamo microfono, questo è il microfono normale, c'è un attimo. E ti toglie tutta quel graffiante e quei bassi che è classico della tua modulazione. In breve, un po' una voce da finocchio, come quella di Luca, che avviene avanti. Come stai chiamando? E stavo parlando male di te. Lo so. Questa è la tua bella come modulazione, cosa stai usando? L'MP? Aumenta un po' alto, che prima gli andavi meglio di radio. Stavo dicendo, cosa stai usando come microfono? Allora, sto usando il Subasta 3009 e il microfono MP più 4. E spinge forte, arrivi bello croccante. Vediamo se la croccantessa torna al naturale. 1, 2, 3, prova radio. Un po' schiacciato da questa parte. Un po' schiacciato cosa vuol dire? Troppo amplificato. È un po' nasina, mi. Cazzo mi dai dunque, tua nasina. Non mi chiamo Falcone da Giudito io. Luca. È forte, è un po'... che non è proprio... non so come spiegarti, non è chiara, è un po'... ma non è con nasina, come dice Antonio, però siamo lì, dai. Non so più cosa devo provare, cazzo. Prova a passarla un po' là, cos'è l'MB più 5 qua? MB più 5, tono a 2, ce l'avevo uno. MB più 5, tono a 2, ecco qua, così? No, prova a passare l'amplificazione. Sai cosa ti manca? Un po' di ambiente dietro, nel senso un po' di stanza, sembra quasi che sei un po' chiuso. Prima? Non ho capito tu, cosa hai detto? Avete parlato in due? Ma che rispetto all'altra, non c'hai ambiente dietro, cioè sembra quasi che sia chiusa. Ma c'è l'altra quale? Ma stai paragonando questa con un keyboard? Tanto se questa è una radio degli anni 70, con un MB più 5, lascia stare la mia modulazione normale, standard, che conoscete tutti, perché... a un certo punto ci dobbiamo abituare anche a cambiare radio, non è che io posso avere sempre il K a disposizione perché la mia modulazione è la numero uno e perché siete abituati a sentirmi in quella maniera. A me interessa sapere se questa radio è presente, se è amplificata, se ha rumori, poi per tutto il resto è noia. Allora è perfetta, assolutamente, se mi stai dicendo che così è perfetta, se non stiamo facendo un paragone fra la tua solita e questa, va benissimo. Diciamo che rispetto a quell'altra ti mancano gravi, questa qua però va benissimo, se mi dici che così è ottimo. Non facciamo paragoni col capo, è un pianeta, cioè, perché anche a volte quando chiedo contro lei, ma non è la tua solita radio, è chiaro che non è la mia solita radio, è 40 anni che io modulo con un cable di un MC60, ma se devo usare un baracchino, dobbiamo abituarci che sto usando Claudio Sparviero, sto usando un baracchino, ed è importante che sia la radio buona, che non sia disturbata, che non abbia rumori, che non abbia niente di particolare. Allora, secondo che mi ha chiamato Alghero, avanti Roberto, ciao, buonasera. Per te ottimamente bene, a prescindere che non è un K, non è un MC60, è un semplice Intec 3104F base, chiamiamolo base, che non è molto base perché insomma è un po' più grande di un veicolare, Il microfono è un MB più 5 da tavolo, Roberto. I watt sono circa una cinquantina, ok? Ok, molto bene, quindi aggiudicato anche per Alghero, uno che mi sente spesso, quindi Antu, no, io pensavo che tu stessi ascoltando questa radio, dimenticandoti del K, questa è una radio vintage con un MB più 5, quindi completamente da non paragonare alla mia solita radio kevudiana. Ok, Franco, per te il microfono va bene? Sì, sì, rispetto al primo passaggio hai modificato, non so, da 1 a 2 o viceversa. Così va benissimo. Per me, come dice Gianni, puntella. No, Gianni puntella glielo do io. Gianni puntello. Ehi, H, ottimo e abbondante, va bene così. Lascia tutto come puntella. Va bene, già Luca. Sì, lascia la musica, puntella, fuori dalla brittella. Puntella, attenzione che questa è la potenza minima della radio, io devo dare anche la potenza massima, quindi ci deve essere un cambiamento. Allora, per questo segnale, per questo cambiamento, vedo con Franco che è quello più lontano a Sassari, Alghero non ho problemi. Allora, Franco, questo è il passaggio numero 1, guarda bene lo smitter, ok, passaggio numero 1, adesso ti faccio il passaggio numero 2, mi dici qual è migliore, ok, se soprattutto aumenta il segnale. Perché devo dare una svolta a questa radio, in modo che questa è quella che uso e non se ne parla più, le altre le lasciamo in esposizione, ok? Ok, adesso ci ho portato a 9 di segnale, prova a aumentare. Allora, questo è il passaggio numero 2, mi devi dire se la radio è rimasta invariata e si è aumentato qualcosa di segnale, ok? Sì, segnale che è passato da 9 a quasi a 9,10 e la radio è buona, non ha peggiorato. Basta così. Alghero, Roberto, va bene, un punto, per un punto Martini perse la cappa, va bene anche un punto, non sono tanti infatti, sono 10 in più, non è niente di particolare. Ok, quindi Alghero va bene, segnale non te lo chiedo neanche, Roberto, perché ti arrivo quando arrivo a Franco qui al Monte Basso, quindi non ci sono problemi, tu sei 9,5 con il baracchino, figurati. Antonio Grode? Alessandro Ciutti, che stai passando la linea da Alghero a Sassari. Antonio Grode, cosa ti vuoi ti dica? Se quello che stavi cercando, sì, cioè è una buona radio, non sei tu il solito, ma la radio è perfetta, quindi assolutamente. Cioè se io ti avessi sentito in un giorno normale ti avrei detto, ma cosa c'ha questo K che è strano? Però è un ottimo compromesso rispetto al K. Bravissimo, ecco qua che Antonio Grode ha espresso il parere praticamente ad hoc come voglio io. Certo, è un compromesso tra un baracchino e un K. Quindi va bene, sì, Sandro Ciotti, no, Claudio Avanti. Avanti, allora facciamo girare la ruota e lascio questa radio, se vi piace vi piace, se non vi piace arrivederci e buon viaggio. Avanti Fra, riprendi tu e fai girare. Grazie Roberto del segnale e del controllo. Non so se sta parlando Roberto. Sì, stava parlando Roberto, ma se sei liscio Fra, Roberto, l'Alghero ti passa, te lo dico. Quindi giusto per farvi capire qual è la mia posizione. Riprendi Fra, cosa hai detto? Infatti. Complimenti allora alla tua posizione, no, tu figurati che come si chiama Gianni con l'antenna di macchina sempre meglio di me con l'antenna grande, vedi? Solo per la posizione che ha. Avanti Gianni. Vabbè. Oh, yeah. Sì, vabbè, tu mi hai attaccato a muro, no? E chiaramente il segnale fa cazzo tipo la facciata, quindi è quello il problema. Uioia. Benemera, facciamo girare, mandiamo a Luca avanti. Luca da Santeria avanti. Da Santeria, magari. Ehi Cla, gira, passa pure a me Roberto di Alghero. Querex per me un attimo. No, a te no, ma Franco sì, a Franco non capisco, insomma, c'hanno lo stesso segnale, dai. C'hanno lo stesso segnale, 9,5, e poi Franco quando attacca arriva più alto, però anche Roberto già si difende bene. Va bene, sì Antonio, concesso il QRX momentaneo, se a me date 10 minuti io metto a posto i cavi qua, ok? Vediamo un po' se mi ascolta Alghero, Roberto mi ascolti? Ah ok, è interessante ascoltarsi, dai, non c'è problema, anche io ti ascolto un po' basso, segnale quasi non ne hai, radio 2, comunque ti ascolto, ti riesco a tirarti fuori. Eia, positivo, dai, avanti Gianni, non bluffe. Eia. Bene meda. Fra, ti devi attrezzare, cazzo, che messo così no, non può andare avanti, la questione. Organizzati qualche cosa, vedi di fare qualche piccolo saltino mortale, dai. Ma tu penso che non ci mai con il combo, boh, risotto. A me non c'è la punta dal tetto. E cosa vuoi fare, dai? Ci accontentiamo. No, Alghero, mi sembra qualche volta sentivo qualcuno forse in banda laterale, un FM, adesso. Un po' a copiarmi. No, è zero. Oh, non so neanche se l'antenna sia il massimo, magari un amato va anche messa lì, forse l'avrei trasmesso meglio, l'hai ricevuto meglio, non lo so. Adesso la sto riparando, un amato va appena. Posso, ma la provo sempre nello stesso punto e vedere se migliora in ricezione almeno. Ma così com'è, mettendo un po' più lungo, non riesci a tirare lassù, o ti è impossibile? Ma hai visto dove cioè, è appoggiata a un paletto murato con una graffetta, non li posso mettere un palo pesante sopra, è uno tenditoio. Mi ricordo. È una baracqua messa così e chiaramente sei limitato, non spinge, no. Oi, ragazzi. Mannaggia. Ma c'è Alghero che sta parlando forse. Robè, se parli tu con tuo compagno mi sovramoduli Franco, Quindi gentilmente, aspettate un attimo. Spostati Robè che stai disturbando Sassari. Ok, grazie. Cosa hai detto Fra? No, stavo parlando con Gianni, mi sa. Di portare su l'antenna, ma come fai? Non posso caricarci un palo più alto, di conseguenza è più pesante, se no mi crolla il ferro per tendere qua. Ma io non ho capito niente perché c'era Alghero che era in mezzo, quindi non capivo un accidente. Ok, dai, va bene. Allora avanti Gianni, riprendi. Ehi. Adesso già mi ricordo, ma avevi mandato la fotografia della posizione dell'antenna. Cazzarola. Se non riesci a metterla sul tetto, sei destinato a prendere colpi, cazzo. Diciamo per il nostro questo locale va bene, certo, alla distanza, sia la parte di, per esempio, di Porto Torres, Sorso e Alghero è proprio zero, anche perché poi proprio l'antenna non li vede proprio. Ti credo, è cieca, cioè la posizione lì è proprio l'antenna cieca, cazzo, non lo becca solo onde di rifrazione, cazzo, si mangia tutto il resto praticamente. È parallela al muro, arriva sotto la grondaia, a volte col vento va in casa sotto, quindi devo agitarla per farla uscire di nuovo fuori. Adesso figurati tu, è già un miracolo che sei scendi allora. Ma è una canna a pesca, va anche troppo bene. Ho fatto anche qualche DX, quindi. Appunto dico, da come si è messo già, voglio dire, visto che sei in una posizione assolutamente cieca, voglio dire, è già un miracolo che riesci a saltare fuori, dai. Avanti Luca. Infatti, già ci vabbè, dove abito io sono in basso, la ho palati, cade lo sa. Insomma, per Alghero a secondo dove è lui, capito, già arrivo bene. E io Alghero con la canna di macchina lo sento proprio in mezzo al QRM più, però con la boomerang con Roberto già ci ho parlato, riuscivo ad ascoltarlo e a farmi sentire, dai. E adesso però finché non rimetto sopra la boomerang, adesso voglio andare da Marcello e da Porto Torres per vedere se riesco a beccare un palo appena più lungo per tirare lassù almeno di un metro, per vedere se cambia qualcosa. Avanti qua. Guarda, stavo urinando. Quanti metri sei adesso? 3-4? Fai che il palo che c'è adesso sia lungo 3 metri, penso. Volevo provare a metterlo almeno un metro un po' più in alto, dai. Dare la marcetta per vedere se c'ha qualche palo da 4 metri. Non so la buca, in genere mi sembra l'altezza giusta dal tetto sia sui 6 metri. La bomba non lo so. Guarda, c'era, come hai visto, c'è la cabina della trombetta.